giornale radio del Friuli Venezia Giulia. È stato arrestato per tentato omicidio l'uomo che ha accoltellato una 49enne udinese all'addome questa notte nel suo appartamento di via Modica. Il tempestivo intervento di alcuni passanti in spiaggia a Lignano attorno alle 8:30 ha salvato la vita di un uomo di 85 anni colto da malore mentre entrava in acqua. Una donna gli ha praticato il massaggio cardiaco in attesa dell'elisoccorso. La stagione balneare a Trieste è iniziata in ritardo rispetto agli anni passati a causa del meteo e soprattutto delle mucillagini. Sui campi di beach volley all'ombra della Tour Eiffel, vittoria del pordenonese Alex Ranghieri e Adrian Carambula nel primo incontro del torneo. Hanno vinto 2-1 contro gli olandesi. Il PAF omaggia il papà di Mr. X, Giancarlo Tenenti, con una mostra di 50 tavole originali. Buongiorno da Lara Zani e Nada Choc per questa edizione del giornale radio. È stato arrestato l'uomo che ha accoltellato ieri sera all'addome una donna di 49 anni nel suo appartamento di via Modica a Udine. Sentiamo i dettagli. Una donna di 49 anni di origine polacca è stata aggredita e ferita lievemente in diverse parti del corpo nella serata di ieri nella periferia di Udine. Il suo presunto aggressore è stato già individuato ed arrestato. L'allarme è scattato verso le 21 a seguito di una chiamata al 112 che segnalava una lite in un'abitazione al primo piano di via Modica, una strada nella periferia sud del capoluogo friulano. Gli agenti hanno trovato la vittima con diverse ferite, probabilmente provocate da arma da taglio. La donna è stata subito trasportata e medicata presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine ed immessa nelle prime ore del mattino. L'aggressore, che nel frattempo si era allontanato dall'abitazione, è stato individuato ed arrestato dagli uomini della squadra mobile di Udine. Per lui l'accusa è tentato omicidio. Si tratterebbe di una persona che avrebbe avuto nel passato rapporti con la vittima, anche se le indagini stanno ricostruendo, oltre alla dinamica di quanto accaduto ieri sera, le frequentazioni dell'abitazione della vittima, dove più volte nel passato era stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per accese liti o discussioni. Udine, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Lignano la tempestiva chiamata al 112 di un uomo che passeggiava in spiaggia alle 8:30 ha salvato la vita di un 85enne che era entrato in mare ed è stato colto da malore. Il passante l'ha notato riverso in acqua, ha chiamato i soccorsi e ha allertato le persone che erano già in spiaggia. Una donna è intervenuta praticando il massaggio cardiaco all'uomo in attesa dell'arrivo dei sanitari che lo hanno trasferito con l'elicottero all'ospedale di Udine. Per il turismo balneare in regione non è la migliore delle stagioni, gli stabilimenti registrano un generale bilancio negativo, in particolare a Trieste, dove pesano i danni delle mareggiate e delle mucillagini. A Trieste, Muggia e Monfalcone, i clienti abituali degli stabilimenti balneari sono i cittadini locali che vanno in spiaggia soprattutto nel fine settimana. Quest'anno però ci sono andati un po' meno. A giugno il meteo non è stato favorevole, poi sono arrivate le mucillagini. Nel frattempo i gestori stanno ancora lottando per sistemare i danni delle mareggiate dell'autunno scorso. Molti hanno ancora ampie aree inagibili e i prezzi sono rimasti quasi invariati rispetto agli scorsi anni. Lo afferma il sindacato italiano balneari, che in Friuli Venezia Giulia stima in meno 30% le presenze finora negli stabilimenti della regione. A Lignano e Grado invece, commenta il coordinatore regionale del sindacato Salvatore Sapienza, la situazione è diversa. La stagione anche qui è sottotono. Il crollo è dovuto alla crisi dell'economia austriaca e tedesca che hanno svuotato i portafogli dei turisti di questi paesi, i quali di conseguenza hanno ridotto i loro mesi di vacanza sulle coste della regione. A incidere anche i grandi eventi sportivi come gli europei di calcio e le olimpiadi che hanno attratto molte presenze. Infine si fa sentire la concorrenza di altre località del Mediterraneo. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora uno sguardo al tempo, cielo sereno su pianura e costa, da poco nuvoloso a variabile sulla zona montana. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 28 gradi, con mare quasi calmo, temperatura di 26 gradi e 5 decimi. A Gorizia 32 gradi e 5 decimi, a Pordenone 30 gradi e 5 decimi. a Udine 29,5 decimi, a Tolmezzo 28 gradi, a Tarvisio 27, a Forni di Sopra 25 gradi e mezzo, a Piancavallo 22, sul Monte Zoncolan 20 gradi e 5 decimi, a Lignano 31 gradi e 5 decimi, a Grado 28 gradi e 5 decimi, temperatura del mare 28 gradi e mezzo. Le previsioni dell'ARPA FVG: dal pomeriggio sui monti inizieranno i primi temporali sparsi che verso sera potranno interessare anche qualche zona di pianure con minor probabilità la costa. Non si esclude qualche temporale forte. In tarda serata soffierà bora. Domani su bassa pianura e costa cielo sereno con bora moderata, più sostenuta al mattino a Trieste e sui monti. Cielo poco nuvoloso variabile, il caldo sarà più secco. Passiamo allo sport con le Olimpiadi. Vittoria del pordenonese Alex Ranghieri e Adrian Carambula nel primo incontro del torneo di beach volley 2-1 contro gli olandesi Van de Velde Immers 22-20, 19-21, 15-13. Mercoledì alle 22 il ritorno in campo della coppia italiana contro la coppia norvegese formata da Moll e Sorum nella seconda partita del Pool B. Sui campi di regata a Marseille, tra pochi minuti la partenza della prima delle tre prove di oggi del doppio femminile 49er FX, nel quale l'equipaggio della triestina Yara Germani con Giorgia Bertuzzi è tra i favoriti. Il duo Germani Bertuzzi arriva infatti a Marsiglia dopo aver vinto l'argento europeo e il bronzo mondiale. Calcio: la Triestina ha perfezionato l'ingaggio del difensore centrale Andrea Moretti, classe 2002, è il fratello gemello dell'ex alabardato Lorenzo. Arriva a titolo definitivo dall'Inter e ha sottoscritto con la Triestina un accordo di durata triennale. Cresciuto nel vivaio nerazzurro con un'esperienza a livello giovanile anche nel Novara, nel 2023 è approdato in Serie C. Nella passata stagione ha vestito la maglia della Pro Patria, giocando 40 partite. Intanto a Rigolato si sta concludendo la partita test tra la Triestina e Torres, che gioca in Serie B. A Trieste, nella piscina dell'Ausonia, ieri pomeriggio si è ripetuto il rito delle Olimpiadi delle Clanfe, cioè i tuffi nei quali ogni triestino e triestina si è cimentato almeno durante l'adolescenza, con l'obiettivo di schizzare quante più persone possibili. Non c'è la senna per l'inaugurazione, ma nemmeno la senape nei piatti dei giudici. Da 17 anni Trieste ha la sua Olimpiade, quella delle clanfe, tuffo tipico del capoluogo che i triestini sostengono di aver inventato, clanfa in dialetto e il ferro di cavallo, la cui forma è imitata nel celebre tuffo di pancia. 184 partecipanti dai 3 a ben oltre gli 80 anni, con delegazioni da Austria, Olanda e Veneto divisi per categorie. Si viene giudicati per la tecnica, un numero che viene moltiplicato per un coefficiente, ma anche per quanto si schizza e per il morbin, altra parola in dialetto difficilmente traducibile oltre Monfalcone. Da regolamento i giudici, tra cui addirittura una carnica, possono essere corrotti con regalie varie. Hanno cominciato a corromperci già prima dell'inizio della manifestazione. Come vedete i tavoli sono assolutamente pieni di cose mangerecce, sono arrivati fagioli con la cipolla, sono arrivate birre, un po' di tutto. Nelle acque dello stabilimento Ausonia tanta goliardia, c'è un mini Trump con tanto di cerotto sull'orecchio che suscita una vera e propria ovazione. Uomini e donne oltre gli anta e anche chi con questa manifestazione è cresciuto. Ma come si esegue una clanfa ce lo spiega Gabriele Auber, campione italiano di tuffi, quelli veri, anche lui tra gli iscritti. La cosa più importante è saltare in alto, prendere coraggio e poi non avere paura di aprirsi sott'acqua. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Sarà un viaggio nei fumetti di Giancarlo Tenenti, la mostra che si inaugura al PAF di Pordenone alle 18.30 ed espone l'allestimento di 50 tavole originali che ripercorrono l'intera carriera del fumettista novantenne che ha disegnato personaggi entrati nella storia del fumetto da Zagora a Diabolik e firmato Mister X. Silvia Moras, direttrice del PAF. La selezione è stata fatta insieme ai figli, in parte insieme allo stesso Giancarlo Tenente e in parte noi del Palazzo del Fumetto. Soprattutto il presidente Marco Dabbà è stato uno di coloro che hanno selezionato e hanno prestato più attenzione a questo aspetto. Avete forse seguito un filo rosso per cercare un'omogeneità tra queste 50 tavole oppure avrete cercato la diversità? Qual è stato, diciamo così, il vostro timone? È stata proprio la diversità, nel senso che abbiamo cercato di selezionare quello che dagli anni 60, 90, l'epoca più recente, sono state le tavole più rappresentative, Mister X per esempio, o il lavoro fatto per la casa editrice Universo con cui ho collaborato per molto tempo, ma c'è anche Diabolik, ci sono dei lavori fatti per Dylan Dog, Zagor, insomma abbiamo cercato di selezionare le tavole di punta che potessero raccontare appunto questa lunga esperienza, questo lungo viaggio nella carriera di Tenenti. Un viaggio molto lungo che però ancora oggi nei primi lavori dimostra una grande contemporaneità di tratto, e forse è stato anche questo uno degli aspetti di questo autore che vi ha attirato nel organizzare questo allestimento. Il tratto contemporaneo sicuramente è stato uno di questi aspetti che noteranno anche gli spettatori e fruitori della mostra. Ha proprio un respiro, oserei dire, non solo moderno ma anche internazionale e quasi cinematografico, nel senso che alcune tavole hanno proprio ricordano moltissimo quello che sono anche le scenografie e la messa in scena che è tipica dei film americani. Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. E questo è tutto per questo giornale radio, che è stato redatto e condotto da Lara Zani e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Da noi tutti grazie e buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.